Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Quali rischi nascondono i cibi che mangiamo? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Questo è l'interrogativo che fa da titolo al primo degli approfondimenti di questa nuova puntata di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Partiamo dallo scandalo della carne di cavallo, cronaca di questi giorni, per parlare di una cosa su tutte, la cosa che tutti noi consumatori chiediamo quando scoppia un nuovo scandalo alimentare: la tracciabilità, perché abbiamo il diritto di conoscere da dove arriva tutto il cibo che mangiamo. Focus sui trend dedicato alla fumetto mania, quando la nona arte fa tendenza. Prima ci sono come sempre le notizie e curiosità di questa settimana. Il costo del pieno ha superato la spesa alimentare settimanale delle famiglie. Fare il pieno di benzina con un serbatoio di 60 litri, sottolinea Coldiretti, costa oltre 112 euro, contro i 111 che le famiglie italiane spendono mediamente ogni settimana per fare la spesa. Un rapporto di cambio che, secondo l'organizzazione, non è eticamente ed economicamente sostenibile. Anno record per la Ferrari, nonostante la crisi. Per Maranello il 2012 è stato l'anno migliore in 66 anni di storia. Record di vendite negli Stati Uniti, in Cina, Gran Bretagna, Svizzera e Germania, che si conferma il mercato più importante nel vecchio continente. Di segno totalmente opposto il risultato italiano, meno 46% rispetto al 2011. In crescita Medio Oriente e Africa. La Cina rappresenta il prossimo Eldorado anche per il food, in particolare per la cioccolateria Deluxe. Godiva, storico marchio belga, prevede di aprire una cinquantina di punti vendita. Nel 2011 i cinesi hanno speso oltre $1 miliardo in cioccolato e questo mercato, secondo gli analisti, continuerà a crescere dell'11% fino al 2014. Buone notizie per il mondo del biologico in Italia. La nuova edizione del rapporto BioBank registra una crescita a doppia cifra per tutti gli indicatori. Gruppi di acquisto solidale, e-commerce, ristoranti, mense scolastiche, aziende con vendita diretta, agriturismi, negozi e mercatini. Google aprirà i suoi negozi entro l'anno, il primo a Dublino, nel palazzo della sede europea dell'azienda. In vendita dagli smartphone ai tablet, dai gadget con il marchio di Big G ai tanto attesi Google Glasses. La borsa della spesa. Non vogliono passare per untori i macellatori e gli allevatori, come si sentono di fatto dopo il primo caso di mucca pazza in Italia e con il conseguente crollo del mercato della carne. Si chiama Vincenzo Odori, di Incisa Scappacino, in provincia di Asti, il commerciante che ha fornito ai supermercati di Milano il Barbera adulterato che ha già ucciso 3 persone. È salito 8 il numero dei piccoli ricoverati in Francia per intossicazione, ma l'ultima bambina arrivata in ospedale non avrebbe mangiato hamburger. Tutti i prodotti alimentari che arrivano dalla Cina potranno essere introdotti in Italia solo da 4 punti di accesso. La decisione arriva in seguito allo scandalo del latte cinese contaminato da melamina, sequestrato anche in Italia. Lo scandalo della carne di cavallo è solo l'ultimo in ordine di tempo. L'anno scorso era toccato al batterio killer, ricordate? Ogni anno ci regala, per così dire, uno scandalo alimentare, dal vino al metanolo alla mucca pazza. Quanto sono sicuri i cibi che mangiamo? Da dove arrivano? Che cosa possono contenere al di là di quello che dice l'etichetta? Scoppiato in Gran Bretagna e Francia, lo scandalo della carne equina coinvolge ormai una ventina di paesi, Italia compresa, in cui la Nestlé, proprietaria del marchio Buitoni, ha ritirato dal mercato ravioli e tortellini. Il Ministero della Salute ha avviato analisi su 200 campioni di cibi preconfezionati, hamburger, ragù, lasagne, carne in scatola. Nessun rischio per la salute è stato assicurato, ma l'interrogativo alla base di questa vicenda è questo: perché usare carne di cavallo al posto di quella di manzo, considerato il prezzo più elevato? Perché è carne proveniente dal circuito illegale, ci dice il direttore del Fatto Alimentare Roberto Lapira. Il problema non è tanto la carne di cavallo che è più pregiata e costa più cara della carne bovina mischiata, non è tanto quello scandalo. Il problema è che si tratta di carne di cavallo non destinata a produzioni alimentari, che non deve entrare nel circuito alimentare, perché sono tutti cavalli da corsa che hanno subito durante la loro vita trattamenti con antibiotici, con antidolorifici, con antinfiammatori, fenilbutazone classico. Per cui questo è il problema. Dopo che smettono di correre a 9-10 anni, il proprietario non li può abbattere, deve mantenerli in vita fino alla morte. È facile alla fine trovare, trasportarli in macelli compiacenti all'interno della comunità europea, dove vengono macellati e vengono venduti come carne di cavallo. Quindi il circuito di cavalli da corsa viene inserito nel circuito di cavallo alimentare. Tra non mantenerli per 10 anni e venderli è sicuramente un affare. Non c'è una filiera del cavallo, dei cavalli, soprattutto sportivi, per cui è facile. C'è una zona grigia, insomma, questo si sa a livello europeo. La filiera dei cavalli è poco controllata, non è come la filiera bovina oppure dei suini oppure degli altri animali d'allevamento. Anche perché la carne di cavallo legale costa dal 20 al 30% in più. Le grosse aziende che acquistano preparati carne trita per lasagne, per tortellini, per hamburger, eccetera, dovrebbero fare come minimo un controllo di specie, cioè controllare che sia solo bovina e non ci siano altri tipi di o suino o pollo, perché nella carne tritata è facile mischiare tutto, no? E siccome i kit ci sono, questa è una carenza, secondo me. Ma la provenienza di questi preparati di carne trita dall'est Europa è indicata in etichetta? No, non è indicata. In etichetta bisogna solo indicare alcune cose per quanto riguarda la tracciabilità della carne bovina e di altri prodotti, ma non sicuramente della carne tritata. Ma non è l'origine che importa, perché se arriva dall'est non è buona e se arriva dalla Francia è buona. Questa è aria fritta. Il problema è che carne ci metti. L'origine non è importante, secondo me. È l'ingrediente che usi che è importante. Il tema dei controlli certo è fondamentale. 2 giorni fa il Ministero della Salute ha anche annunciato la creazione della tanto attesa anagrafe sanitaria equina. Ma secondo noi esiste anche un problema di etichetta, di tracciabilità degli ingredienti lungo la filiera agroalimentare nel mercato unico europeo, perché i consumatori hanno il diritto di sapere da dove arriva ogni singolo ingrediente del cibo che comprano e mettono in bocca. Quanto sono tracciati gli ingredienti presenti nell'industria alimentare italiana? Lo abbiamo chiesto al presidente di Federalimentare Filippo Ferrua Magliani. L'Italia è allineata in questo a tutti gli altri paesi europei, perché le normative in materia di etichettatura sono europee e devono essere europee, non possono essere diverse da Stato a Stato. In materia di carne siamo già molto avanti, perché c'è una normativa specifica sulle carni bovine e un'altra già approvata a livello europeo che deve entrare in vigore l'anno prossimo per tutte le altre carni, quindi direi che siamo tutelati, però di fronte poi al crimine ci arrendiamo. In che misura l'industria alimentare italiana utilizza i macinati di carne, i preparati che possono arrivare da aziende extra Italia, come abbiamo visto ad esempio questa era un'azienda tedesca interessata? Io non sono in grado di darle questo dato perché non ne dispongo, cioè bisognerebbe chiedere direttamente alle aziende o alle associazioni di questo comparto. A suo avviso non dovrebbe essere informato il consumatore sul fatto che quella carne presente nel cibo che va a consumare possa essere lavorata in un paese diverso dall'Italia quando compra un prodotto italiano che lui crede essere in tutto e per tutto italiano? Il discorso della provenienza sull'etichetta è un discorso molto complesso. Primo, deve essere risolto a livello europeo in modo uguale per tutti gli stati. Secondo, è un problema molto difficile da attuare a livello industriale, perché le nostre industrie di trasformazione utilizzano materie prime che provengono da paesi diversi. Quindi, se si dovesse indicare la provenienza in etichetta, bisognerebbe continuamente interrompere il processo di produzione tutte le volte che si utilizza una materia prima di provenienza diversa, con dei costi eccessivi poi per l'industria. Al consumatore deve interessare sapere cosa c'è dentro l'alimento, ma della specifica provenienza del prodotto chi fa da garante è il marchio del produttore. Essere e avere. Super GT è più veloce di Mi Astro Jet Jumbo Jet. Braccio di ferro mangio, spinaci scatolati, un pugno in faccia gli tirò. E Loki ha ripulito la città. Di nuovo in studio con Essere Avere, apriamo questa seconda parte con un omaggio a Lucio Dalla. Tra pochi giorni, il primo anniversario della sua scomparsa, con questa canzone scelta dalla RAI nel 1969 come sigla di uno storico programma di cartoni animati della TV dei ragazzi. Fumetto è il titolo di questa canzone, il focus sui trend di questa settimana è dedicato appunto alla fumettomania. Ecco perché sono tutti qui davanti a te, Charlie Brown. A guidarci nell'analisi c'è come sempre la nostra esperta di nuove tendenze, Patrizia Martello di Memetic Lab. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Fumetti, comics, manga, linguaggio universale e trasversale, espressione dell'arte figurativa contemporanea, strumento anche di denuncia sociale. Oggi la nona arte contagia design, moda, arte, comunicazione, retail, cinema, letteratura. Non c'è ambito in cui il fumetto non sia stato messo alla prova, persino in politica, e le ricadute nel mondo dei consumi sono moltissime. Patrizia. Sì, da fenomeno di nicchia per monomaniaci, diciamo così, i comics anche in Italia diventano progressivamente un consumo culturale diffuso, anche se non ancora main style, inteso proprio come grande pubblico. La realtà fumettistica italiana è molto vitale, si sa, e definito dal più noto giornalista fumettologo del mondo, Paul Gravett, il più bel libro sul fumetto dell'anno uscito per Rizzoli è Fumetto, 150 anni di storie italiane a cura di Gianni Bono e Matteo Stefanelli. Sui contagi, beh, il fumetto ha contagiato tutto. Pensiamo alle trasposizioni hollywoodiane dei supereroi marvelliani e non, un trend che continua ad essere forte nel cinema, Spider-Man, Batman, Iron Man, Hulk, Thor, i Fantastici 4, eccetera, ma appunto anche Sin City, oppure come Persepolis della Satrapi sulla rivoluzione iraniana, eccetera. Anche nelle serie TV, tratte dalle omonime strisce a episodi come The Walking Dead, la serie culto sugli zombie, o la recente Utopia inglese, che non è tratta da un fumetto, ma la cui trama è incentrata interamente sul ritrovamento di un fumetto. È un manoscritto di un graphic novel, cioè lo specifico genere del romanzo a fumetti, che pare contenga le previsioni dei disastri del Novecento e conseguenti strategie per impadronirsene. L'universo del fumetto è di fatto uno dei serbatoi più generativi di contenuti, stimoli, icone, eccetera, che vengono appunto regolarmente intercettati e usati da tutti i settori del consumo, dalla moda, per fare giusto un esempio, le Reebok ispirate ai supereroi. E ricordiamo, il là è stato dato dal marchio Louis Vuitton, che ha affidato ormai nel lontano 2004 all'artista giapponese Murakami la reinterpretazione del suo storico monogramma. Pescano dal fumetto anche la televisione e anche la rete, come nel caso della notoria maschera di V for Vendetta, utilizzata come simbolo dei diversi movimenti Occupy, fenomeno internazionale ormai di costume, che da nicchia è diventato quasi, tra virgolette, da baraccone. Nato in Giappone è il cosplaying, cioè l'hobby di divertirsi vestendosi come i personaggi dei fumetti manga, cartoni animati e videogiochi. Anche il toy movement, ricordiamo che toy sono i designer toys, cioè i personaggini in plastica per adulti prodotti in tiratura limitata e disegnati da artisti grafici e fumettisti, è partito dal fumetto e dall'illustrazione, poi è andato ben oltre, contaminandosi appunto con la street art, con la grafica, l'animazione e la produzione di prodotti moda, t-shirt e vario merchandising, fino a invadere il mercato dell'arte contemporanea. Il fumetto non è solo pura evasione o intrattenimento, ma il suo linguaggio immediato, popolare, visionario, fatto di parole e immagini, viene adottato anche da scienziati e giornalisti. Perché, come ha detto Giulio Giorello in occasione dell'uscita del suo libro La scienza tra le nuvole, da Pippo Newton a Mr. Fantastic, qualche anno fa, il fumetto in fondo fa quello che la scienza ha fatto in molti momenti della sua storia, cioè abbina in modo intelligente l'elemento figurativo e l'elemento verbale. Anche il giornalismo si accoppia con l'aggettivo graphic e quindi inchieste, reportage, documentari diventano appunto illustrati. Un medium questo via via considerato con crescente rispetto. Due esempi tra i molti sono app per iPad e siti web, Symbolia Magazine e la Revue Dessinée. Anche la TV si è accorta della tendenza, lo testimonia Fumettologi, primo programma televisivo dedicato al fumetto in onda su Rai 5. Abbiamo scelto la puntata su Diabolik, che quest'anno compie 50 anni. Ora vi diamo una ricetta non troppo complicata, abbastanza pratica. Si chiama l'uovo alla Diabolik. Scusate, ma perché si chiama uovo alla Diabolik? Perché è rubato. Diabolik è un criminale tout court. La sua vita è votata al soddisfacimento di un obiettivo, che è quello di mettersi alla prova nel furto. Hai gusto alla sfida, di questa sfida contro il potere. Non è mai sadico, ma sicuramente è cattivo. Patrizia, alla base di questa grande riscoperta del fumetto c'è anche il fatto che il fumetto ha saputo modularsi sulle nuove tendenze e pratiche sociali legate soprattutto alla rete, così. Sì, senz'altro l'ecosistema digitale contiene nuove opportunità tecniche, comunicative e partecipative anche per il fumetto. Recente la nuova iniziativa digitale per la Marvel, che include materiali originali ed extra contenuti, circa 8 per ogni fumetto per smartphone e tablet, si chiama Re-Evolution e si basa appunto su un'app che utilizza la realtà aumentata, si chiama Marvel AR. E poi il caso della startup giapponese Alice B, che ha lanciato l'app Feel On per Twitter, che arricchisce i tweet con illustrazioni colorate correlate ai contenuti dei messaggi stessi, sorta di emoticon in versione fumetto. Che siano di carta o digitali, i fumetti del futuro poco importa, non ci occupiamo del supporto, ma delle variabili influenti sui cambiamenti dei mercati editoriali che riguardano appunto anche il fumetto. Una variabile significativa è la rete, evidentemente, perché la rete oggi finanzia le idee e non stupisce che Kickstarter, una delle piattaforme di crowdsourcing, cioè il micro azionariato collettivo online, sia già tra i principali editori di graphic novel. Una recente comparazione economica da Kickstarter al quarto posto dopo Marvel, DC Comics e Image. E il kit per fumetti Do It Yourself, fai da te, è proprio un progetto che l'artista Eric Hoymiller si è fatto finanziare da Kickstarter. L'autoproduzione di prodotti, servizi, anche culturali, sappiamo un grande trend del presente e del futuro, così come la customizzazione. Il kit si chiama Magnet Comic e contiene 36 magneti a forma di personaggi e un supporto rettangolare suddiviso a strisce su cui apporli, più un pennarello cancellabile. Ognuno arricchisce la propria opera illustrando e sceneggiando, diventando un po' vignettista. Sulla personalizzazione del fumetto, da citare il padre del graphic novel, Chris Ware, e il suo Building Stories, che, come dice il titolo, è un fumetto con 14 storie che il lettore si costruisce da sé, dunque singolari, uniche, irripetibili, soprattutto nei finali. Altra versione di personalizzazione alla lettera è il progetto artistico Ideogenetic Machine. È un'installazione interattiva esposta al National Taiwan Museum of Fine Art a fine 2012 che con una videocamera incorpora le persone in carne e ossa e i loro movimenti in tempo reale inserendole in un fumetto. Sul tema rete e disintermediazione da segnalare Anikibo, una piattaforma online che potrebbe diventare il negozio virtuale d'elezione per appassionati di fanzine, fumetti e riviste indipendenti acquistabili direttamente da chi li produce. E sul tema co-creazione con i bambini, al Festival Internazionale del Fumetto di Bologna, Bill Ball Bull, che si chiude oggi, la mostra Piccole Apocalissi. I mostri disegnati da 20 bambini di prima elementare, l'idea di Daniele Brolli, curatore dell'iniziativa, a cui i mostri sono molto cari, che dice nel suo blog: «Sto esplorando i territori segreti della mia mente, faccio disegni semi-automatici, vagamente surrealisti, che recuperano i detriti reconditi della psiche da piccole apocalissi portatili. I mostri, come si vede dai disegni dei bambini, sono di fatto amichevoli, accettabili e terapeutici, sia per adulti che per bambini, come li definisce lui, non ancora normalizzati». Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo negli Stati Uniti sulla fumettomania? Ce lo racconta come sempre la nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao, buon pomeriggio. Anthony Bourdain è un noto chef, scrittore, nonché una star televisiva, che ha tradotto in un'opera a fumetti la molto contemporanea ossessione per il cibo. In occasione dell'ultimo San Diego Comic Con, infatti, ha pubblicato un graphic novel dal titolo Get Zero, che è subito balzato in cima alla classifica delle vendite del New York Times, superando addirittura i titoli di Batman. L'impianto narrativo è quello di un thriller d'azione ambientato in una Los Angeles di un futuro non molto in là da venire, in cui il cibo e i segreti della sua preparazione sono la fonte di ogni potere. Gli chef governano la città e le persone letteralmente uccidono per un posto nel miglior ristorante. La storia ruota intorno allo scontro tra due imperi, quello dell'alta cucina globalizzata, orientata biecamente al profitto, capeggiato da un tale Bob, e quello del cibo locale e vegetariano, capeggiato da Rose, personaggio parodia dei moderni gastrofighetti. In mezzo sta il protagonista Shiro, maestro di sushi, tra l'altro liberamente ispirato allo chef 3 stelle Michelin Jiro Ono, che non vuole asservirsi a nessuno dei due, ma coltivare in libertà la propria arte. Insomma, un coraggioso crossover infarcito di piccole chicche per appassionati foodies, che ironizza sulle manie della cultura occidentale del cibo. Grazie Alessia. Patrizia, anche in questo caso lo abbiamo sentito, il fumetto ha intercettato uno dei fenomeni del momento, cioè la cucina. In conclusione, quanto si radicherà ancora la fumettomania? Ma il fumetto ormai ha parità, dignità della narrativa, abbiamo visto, del giornalismo, eccetera, ha questo enorme vantaggio dell'immediatezza e dell'efficacia, associando parole e immagini. È un medium popolare ma molto visionario, capace di restituire attraverso invenzioni visive e sempre nuove molteplici interpretazioni della realtà. Quindi sarà sempre molto usato per raccontare al mondo storie. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. Veniteci a trovare sul nuovo sito di Radio 24, dove troverete questa e le altre puntate, così come sulla nostra pagina Facebook, dove aspettiamo le vostre idee e i vostri suggerimenti. A domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.